Buonasera Chiesa! Come stiamo? Io voglio riprendere un attimo dalle parole che Gianluca ci ha trasmesso domenica scorsa. E lui ha trasmesso attraverso questo meraviglioso messaggio sui Salmi, che se non hai ascoltato ti consiglio vivamente di ascoltare andando su YouTube. E lui in questo messaggio ha manifestato la sua gratitudine a tutti noi per esserci. Perché quando stiamo insieme, noi facciamo chiesa. E quando noi facciamo chiesa, richiamiamo la presenza di Dio. E quando c'è la presenza di Dio in mezzo a noi, le nostre vite sono profondamente, radicalmente, eternamente trasformate. Amen. Quindi sei grato alla persona che ti sta a fianco, che è qui questa sera? Sì, glielo puoi dire? Diglielo con tutto il cuore. Grazie di esserci. È bellissimo stare insieme. Io voglio chiedere a quanti genitori in mezzo a noi hanno bambini più piccoli di 5 anni di alzarsi in piedi in questo momento. Ci sono genitori che hanno figli minori di 5 anni, potete alzarvi ora in piedi. Vogliamo fare un applauso a tutte queste persone. No, rimanete in piedi. Perché per te è stato facile venire qui questa sera, ma per loro è stato molto più difficile. Quindi ringraziamoli per essere venuti. Siete degli eroi, delle eroine, perché portare avanti quello che è l'impegno di avere dei pargoli a casa che non ti fanno dormire la notte, che urlano, schiamazzano, che richiedono una preparazione di almeno 2 ore prima per mobilitarti ad andare da qualsiasi parte fuori da casa tua, siete veramente degli eroi e delle eroine e noi siamo grati a Dio perché ci siete. Amen? A me, tutti gli altri genitori che mi stanno guardando, no? Dici, ma io, a me ha 5 anni e mezzo e tu non puoi capire quello che io sto vivendo. Vale anche per te, però ho voluto prendere questa fascia di età perché è un po' particolare. Ora, noi, vorrei ricordarlo a ciascuno di noi viviamo una grazia meravigliosa, che è quella di avere la rivelazione dell'Evangelo nelle nostre vite, di vivere in accordo con quella che è la rivelazione dell'Evangelo nella nostra vita. Che cosa significa questo? Vivere l'Evangelo sicuramente non significa conoscere una bella teoria che poi vai a studiare e che poi vai ad approfondire attraverso il corso di consolidamento 1, 2 e quanti altri corsi. L'eccezionalità e la bellezza dell'Evangelo è che è uno stile di vita, è un cambiamento radicale che trasforma le nostre vite per sempre. Questa è la bellezza dell'Evangelo, questo è ciò che noi viviamo e di questo noi siamo grati a Dio. Perché non siamo qui solo per analizzare qualcosa che rimane a livello teorico molto bello, ma stiamo qui per analizzare qualcosa che ha la potenza di trasformare le nostre vite, anzi già l'ha fatto e vuole continuare a farlo. Dio vuole continuare a trasformare la tua vita e renderla ancora più bella, perché questo è il desiderio di Dio. Dio fa le cose belle, Lui ha creato i cieli e la terra, Lui ha creato te e me, e non credi che ci ha creati in una maniera bellissima? Ah, vedo che c'è un po' di indecisione, cioè, forse perché sto io davanti. Dio ci ha creati in una maniera bellissima. Stupenda, meravigliosa, tutto quello che Dio fa è bello e Dio ci ha creato per vivere una vita straordinaria. Tu hai il diritto e la possibilità di guardarti allo specchio ogni nuovo giorno e dire a te stesso: io vivo una vita straordinaria. Puoi essere titubante in questo momento, puoi crederci o non crederci, ma la realtà dei fatti è che una vita da cristiano, da seguace di Gesù, è la più alta forma di vita che si possa vivere su questa terra. Essere credenti, essere cristiani, essere seguaci di Gesù, essere quello che siamo, la Chiesa sua, è la più alta forma di vita che tu possa vivere. Dio ci ha chiamati dalla morte, letteralmente, alla vita. Ci ha chiamato dalle tenebre alla luce. Dio ci ha chiamato senza futuro, senza destino, nell'ignoranza, ad avere oggi un destino, un futuro, a sapere cosa ci aspetta. Tu vivi la più alta e la più nobile e la più bella forma di vita. E noi dobbiamo renderci conto che la parola di Dio insiste su questo concetto, vuole che noi abbracciamo completamente tutta la bellezza che sta nel vivere una vita con Cristo Gesù. E questa sera io farò qualcosa che solitamente non faccio, cioè leggere davvero tanti versi. Leggeremo un intero capitolo, anzi più di un capitolo della Bibbia leggeremo insieme. Vi va? Ah, beh, bene. Stamattina erano un po' più titubanti a riguardo, sono contento. E il motivo per il quale andiamo a prendere questo capitolo è perché non riuscivo, anche se logicamente il mio messaggio sarà incentrato su una singola parola, dei vari versi che andremo a leggere, però leggendo questo capitolo, leggendo questa ricchezza, non posso fare a meno che leggerla insieme, perché questo capitolo ci parla proprio di questo stile di vita al quale il Signore ci richiama e ci dà la possibilità di vivere. E io credo che il Signore, lo Spirito Santo, vorrà parlarti questa sera attraverso questi versi, anche a prescindere da quello che andremo a vedere insieme più in là. Vi va? Quindi vi va di mettervi in sintonia con quello che lo Spirito Santo vuole dirti? Lui vuole probabilmente correggerti, modificarti, sfidarti, vuole chiamarti a una conquista nuova e la potrai scoprire nella lettura di questi versi. E ti prego di essere sintonizzato con Dio e chiedere a Lui: Signore, che cosa vuoi dirmi questa sera? Poi andremo ad analizzare quello che il Signore ha messo nel mio cuore. Andremo a leggere ora da Colossesi capitolo 3, versetto 1, tutto il capitolo. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Fate dunque morire ciò che in voi è terreno: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e cupidigia che è idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli. E così camminaste un tempo anche voi, quando vivevate in esse. Ora invece deponete anche voi tutte queste cose: ira, collera, malignità, calunnia, e non vi escano di bocca parole oscene. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere, vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando in conoscenza, immagine di colui che l'ha creato. Qui non c'è greco, giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Rivestitevi dunque, come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose, rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Mogli, siate sottomessi ai vostri mariti, come si conviene nel Signore. Mariti, amate le vostre mogli e non vi inasprite contro di loro. Figli, ubbidite ai vostri genitori in ogni cosa, poiché questo è gradito al Signore. Padri, non irritate i vostri figli affinché non si scoraggino. Servi, ubbidite in ogni cosa ai vostri padroni, secondo la carne, non servendoli soltanto quando vi vedono, come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo il Signore. Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità. Servite Cristo, il Signore. Infatti chi agisce ingiustamente riceverà la retribuzione del torto che avrà fatto, senza che vi siano favoritismi. Padroni, date ai vostri servi ciò che è giusto ed equo, sapendo che anche voi avete un padrone nel cielo. Perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazie. Ci fermiamo qui. Non è ricco. A quanti il Signore ha già parlato? A quanto il Signore ha già detto qualcosa? Bene, allora posso concludere qui? No, vogliamo andare avanti? C'è qualcosa che a me salta all'occhio in questi versi. E partirei da quest'ultimo verso che ho appena letto. Quest'ultimo verso dice: perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazie. Voi pensavate che andavo a predicare su mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, eh? Vedo proprio gli uomini, già Antonio appena sposato, no, dice, dai, predica su quel, dalle addosso. E invece no, ahimè. Andremo ad analizzare questa piccola parola, rendimento di grazie, che troviamo anche nel verso precedente, versetto 15, lo potete vedere sullo schermo, che dice siate riconoscenti. E versetto 17, che abbiamo anche letto questo, qualunque cosa facciate in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Rendimento di grazia, riconoscenza, ringraziamento, sono sempre la stessa parola ed è incredibile, bellissimo vedere come la parola di Dio insiste parlando a noi su quello che è lo stile di vita che noi dobbiamo vivere ogni giorno e istruendoci, anzi dandoci un comandamento molto chiaro, e che questo è semplice: siate grati, vivete nella gratitudine. E dovete capire questo, che questo non è l'unico posto nella Bibbia dove troviamo questa istruzione, questo comando. In realtà questa istruzione, questo comando, la troviamo in tutta la parola di Dio. In tutta la parola di Dio, Vecchio Testamento e Nuovo Testamento. E l'Apostolo Paolo, che è l'autore, che ha scritto la maggior parte dei libri che troviamo nel Nuovo Testamento, comincia, sentite bene, ogni singola lettera. Tutte le lettere che l'Apostolo Paolo comincia, all'inizio partono dal ringraziamento. Lui parte dal ringraziare. Parte dal ringraziare, eccetto per i Galati, a tutte le lettere parte ringraziando. Anche i Corinzi? Anche i Corinzi. Ora, per chi conosce la Chiesa ai Corinti, forse comprende che questa è un'assurdità, perché nella Chiesa ai Corinti c'era di tutto e di più. E l'Apostolo Paolo, se aveva qualcosa da dover dire ai Corinti, certamente non era un ringraziamento come fa all'inizio. All'inizio dice: io ringrazio sempre Dio, il mio Dio, per voi. Eppure questa era una chiesa che viveva divisioni, arroganza, immoralità, impurità sessuali, incesto addirittura. Cristiani che portavano in causa altri cristiani davanti ai tribunali, abuso della libertà cristiana, abuso della cena del Signore, abuso e disordine nei doni spirituali, incredulità della resurrezione. Una delle cose principali che un cristiano dovrebbe vivere, loro erano increduli sulla risurrezione, avevano confusione a riguardo, avevano falsi insegnanti, c'era mormorio e c'era mancanza di ravvedimento e c'era rigetto per le autorità. Questa era una chiesa non messa male, ma male, male, male, male, male, ma proprio male. Cioè, tutti i peccati che una chiesa può vivere ce l'aveva la chiesa a Corinto, va bene? Noi stiamo messi molto, molto, molto, molto meglio dei Corinti. Quindi partiamo da questo presupposto. Eppure l'Apostolo Paolo, cominciando la lettera ai Corinti, scrive questo: io ringrazio sempre il mio Dio per voi. Ve lo immaginate con che tono l'ha scritto? Io ringrazio sempre il mio Dio per voi. Ma non credo fosse questo il tono della voce dell'Apostolo Paolo. Lui era sincero, lui era genuino, lui aveva ringraziamento per questa massa di ingrati, questa massa di sconvertiti, questa massa di disordinati. Lui aveva ringraziamento davanti a Dio. Io ringrazio sempre il mio Dio per voi. Il titolo del messaggio di questa sera è prima di tutto. Prima di tutto, che sono due parole che l'Apostolo Paolo usa invece nella lettera ai Romani, un'altra lettera meravigliosa, una ricchezza di insegnamenti. Per chi ha letto la lettera ai Romani sa a cosa faccio riferimento. La lettera ai Romani è quella lettera per eccellenza, quel libro per eccellenza nella Bibbia che spiega praticamente tutto. La salvezza di Dio, la grazia di Cristo Gesù, la gravità del peccato, la vita cristiana, la Chiesa, tutto. Tu trovi tutto in un concentrato che è la lettera ai Romani. E come comincia Paolo, pur avendo la consapevolezza che andrà a dire tutte queste cose importantissime, prioritarie, lui comincia la lettera ai Romani in questa maniera. Prima di tutto, prima della grazia, prima della consapevolezza del peccato, prima che vi spieghi che cos'è la Chiesa, prima che vi spieghi tutto ciò che riguarda l'umanità, dopo aver fatto quello che è proprio un indirizzo, è come si scriveva la lettera, la sua presentazione, io Paolo, servo del Signore, eccetera, prima di tutto scrive, versetto 8, io rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo riguardo a tutti voi. E poi dice anche il perché. Vedete, la gratitudine non è un optional del credente. La gratitudine non è un aspetto secondario che noi possiamo scegliere di vivere o non vivere. La gratitudine è qualcosa di essenziale e che parla chiaro della nostra maturità in Dio. Ascoltatemi bene, la gratitudine non è la caratteristica di cristiani spensierati che non hanno niente di cui preoccuparsi. Piuttosto è la caratteristica di uomini di fede alla statura di Paolo che scelgono di contrastare e vincere contro la carnalità delle loro vite che li porta a vivere l'ingratitudine. Mi seguite? Gesù vuole che noi abbiamo rivelazione, non solo questa sera, ma proprio nella nostra vita di ogni giorno, del valore, del peso, della conquista della gratitudine nelle nostre vite. Dio ti chiama non ad essere un cristiano spensierato che cerca di ignorare i problemi, le situazioni difficili, ma piuttosto vuole fare di te un uomo, una donna di fede, ben consolidata in Cristo, che ha rivelazione del motivo per il quale sempre, in ogni circostanza e per qualsiasi ragione, ha sempre la possibilità di vivere la gratitudine, il ringraziamento. Sapete, l'ingratitudine è qualcosa che caratterizza coloro che sono lontani da Dio. Noi lo leggiamo proprio qualche verso dopo, a Romani, sempre capitolo 1, al versetto 21, noi leggiamo di queste persone ribelli, queste persone che non hanno avuto rivelazione dell'Evangelo, che non hanno avuto una vita trasformata, che non sono salvi, che sono lontani da Dio. E vedete l'Apostolo Paolo come descrive queste persone. Pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato. Ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore privo di intelligenza si è ottenebrato. L'ingratitudine è la caratteristica di coloro che non hanno avuto rivelazione di Dio. Perché se tu hai rivelazione di Dio, perché se tu hai rivelazione della gravità del peccato, perché se tu hai rivelazione di quello che la parola di Dio spiega già solo dal primo libro, dai primi capitoli della Genesi, tu non puoi fare altro che essere grato. Grato per ogni cosa. grato a Dio perché ti rendi conto da credente maturo, sotto la rivelazione dello Spirito Santo, che niente su questa terra ti è dovuto. Che il fatto stesso che in questo momento tu puoi inalare aria e ossigeno e puoi guardarmi e puoi ascoltarmi è una grazia di Dio. Niente ti è dovuto, niente, niente tu lo puoi meritare. È tutto quello che hai, tutto quello che hai, è una grazia di Dio per te. Prima di venire qua vedevo un arcobaleno bellissimo, non so quanti l'hanno visto. Andatevi a leggere la storia di Noè, quello è un segno che ci ricorda, bellissimo averlo proprio prima di questo incontro, un segno che ci ricorda la grazia di Dio per l'intera umanità. E l'intera umanità giace sotto una grazia di Dio che forse, molto probabilmente, anzi sicuramente, la stragrande della maggioranza di loro non riconoscono. Ma noi che la riconosciamo non possiamo più vivere nell'ingratitudine. Dobbiamo vivere nella gratitudine, dobbiamo vivere nel ringraziamento, dobbiamo vivere nella gioia di dare gloria a Dio e ringraziarlo per ogni buon dono che Lui ci dà. La gratitudine onora Dio. È per questo che noi lo dobbiamo vivere, perché l'ingratitudine disonora Dio. E noi possiamo scegliere di attrarre le benedizioni di Dio nella nostra vita nel momento in cui scegliamo di onorarlo attraverso la gratitudine. Sapete, la gratitudine è sicuramente una delle chiavi, la più importante delle chiavi, che rilascia, che apre la porta della gioia nella tua vita. Se c'è qualcosa che ci accomuna, noi tutti qui e ogni persona che anche lì fuori non conosce il Signore, è che tutti noi stiamo cercando gioia, noi vogliamo gioia nella nostra vita. Beh, il Signore ci dà una chiave molto, molto chiara. Vuoi avere gioia nella tua vita? Comincia ad essere grato, comincia a rilasciare gratitudine, comincia a riconoscere le cose per le quali puoi ringraziare il tuo Dio, puoi ringraziare le persone che ti circondano, puoi ringraziare anche nelle situazioni più difficili. La seconda motivazione, quindi la prima motivazione valida per ringraziare il Signore è perché lo onora. La seconda è perché quando noi viviamo la gratitudine nella nostra vita, questa ci permette di vivere la verità. Ve lo spiego questo. Il padre della menzogna è il diavolo. Gesù invece dice: io sono la via, la verità e la vita. Noi abbiamo una contrapposizione tra il padre della menzogna, che è il diavolo, e che continuamente metterà pensieri e cercherà di portarti a credere a delle bugie. Dall'altra parte noi abbiamo il nostro padre buono, che in Cristo Gesù ci dà rivelazione della verità. A volte le persone non vivono la gratitudine perché credono che mettere e condire la propria vita con gratitudine significa distorcere la verità, distorcere la realtà delle cose, quando è esattamente il contrario. La distorsione della realtà, che è quella che ci vuole far credere il diavolo, sta proprio in questo: farti essere ingrato per ogni cosa. Ed è una miopia che la maggior parte di noi vive. La miopia che non riusciamo, che cos'è la miopia? Non riuscire a vedere con chiarezza da lontano. Non riuscire a vedere la realtà nella sua completezza. E quando noi viviamo l'ingratitudine, ci concentriamo solo sulle cose che non vanno bene, noi stiamo guardando solo una parte della realtà, non stiamo guardando il quadro completo e viviamo nella bugia. Viviamo in quella trappola nella quale il maligno ci vuole portare per farci vivere delle vite miserabili. Delle vite che sono disperate, che sono angosciate, che vivono sotto l'oppressione della depressione, della tristezza e dell'angoscia. Quando tu rilasci la gratitudine nella tua vita, stai entrando nella verità. Stai cominciando a vedere il quadro della realtà nella sua interezza. Perché sapete una cosa? Non so, qualsiasi è la tua situazione, lo stato del tuo cuore questa sera, in qualsiasi condizione tu ti trovi oggi, questa sera, può essere la giornata più buia della tua vita, la realtà dei fatti è che tu hai sempre una buona, anzi più di una, anzi decine, anzi probabilmente centinaia di buone ragioni per cui essere comunque grato. Sembra incredibile, ma è questa la realtà. E nel momento in cui tu, anche nella situazione più triste, non permetti al diavolo di tenerti rinchiuso in quella cella dell'ingratitudine, anche nella situazione più triste, diventi una persona che vive veramente, che vive in abbondanza. E questo è l'esempio dell'Apostolo Paolo. Nelle circostanze più difficili, nelle situazioni più tristi, molti di noi probabilmente nella metà, in un briciolo di quello che lui ha vissuto, ci saremmo disperati, caduti in depressione, avremmo abbandonato la fede, di tutto lui invece lo troviamo a lodare il Signore, a essere grato a Dio, a ringraziarlo. Vuoi tu essere un uomo di questo spessore, di questa altezza? Vuoi tu essere una donna di questa altezza? Il mio invito è facciamole insieme, perché deve trionfare nella nostra vita la verità. La gratitudine ti dà la possibilità di vivere nella realtà. La gratitudine fa un'altra cosa, questo è il terzo punto. Onora Dio, ti porta a vivere la verità, la realtà completa. E il terzo punto, che bellissimo, la gratitudine produce santità. Ti purifica. Ma voi vi rendete conto quanti peccati vengono letteralmente schiacciati, annullati nel momento in cui noi siamo grati? Quando noi siamo grati, noi schiacciamo il peccato dell'invidia, noi schiacciamo il peccato della gelosia, noi schiacciamo il peccato della contesa, noi schiacciamo il peccato dell'orgoglio. Qualcuno ha detto: l'orgoglio non dice mai grazie. Ed è vero. Se tu non hai la capacità di dire grazie a qualcuno, grazie a Dio, grazie per qualsiasi cosa tu vivi, è molto probabilmente perché domina in te una forma di orgoglio che Dio invece vuole darti la possibilità di vincere. Non ti devi flagellare di notte, non devi sbattere la testa contro il muro, è molto molto più semplice. Comincia a ringraziare. Comincia a ringraziare la commessa al supermercato dove vai. Comincia a ringraziare tua moglie, tuo marito per qualcosa di buono che loro fanno. Comincia a ringraziare. Lì eserciti l'umiltà. E lì schiacci l'orgoglio e vinci su questo peccato. La gratitudine produce purezza ed è per questo che è così importante. Io voglio darvi delle chiavi molto pratiche, ok? Concluderemo questo incontro con degli aspetti molto pratici. Tre aspetti molto pratici. Il primo, come puoi vivere il ringraziamento nella tua vita? Beh, è molto semplice. Smettila di avere solo dei punti di preghiera. Smettila di avere solo punti di preghiera. I punti di preghiera sono bellissimi, sono meravigliosi, ma se non sono accompagnati come la Bibbia istruisce, come quel verso che abbiamo letto, come leggiamo anche in altri versi, no? Filippesi che dice: non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate riconoscere le vostre richieste a Dio, in preghiera, in supplica, accompagnate da ringraziamento. Sai cosa sta dicendo Dio? Sia le preghiere, sia le suppliche, cioè l'insistenza di chiedere determinate cose, ma per piacere, unisci a questo il ringraziamento. Smettila di avere solo punti di preghiera. Quando il Signore ha parlato al mio cuore su questo aspetto, io ho cominciato a segnare esattamente come segno i miei punti di preghiera, i miei punti di ringraziamento. Prima segnavo solamente preghiera per Marta, per il suo piede, per come lei sta affrontando la missione. Punto 2, per la squadra pastorale dei ministri di questa chiesa. Punto 3, per i capogruppi di questa chiesa. Punto 4, per la mia situazione X, Y, Z, e va avanti, è la lista, le pagine, l'enciclopedia. Il Signore ha detto: basta, basta tutto questo. Ad ogni punto di preghiera fai corrispondere un punto di ringraziamento. E quando ho cominciato a scrivere i punti di ringraziamento, ok, mi organizzo. Voglio vivere un tempo di preghiera con Dio? Ok, punti di preghiera ce li ho, mi vengono veloci, basta guardare anche gli SMS che ti mandano via WhatsApp se sei del servizio di preghiera, punti di preghiera veloce. Ora, punti di ringraziamento. Oggi voglio ringraziare il Signore per il fatto che è il 1° maggio. Ed è domenica, è capitato di domenica. E se solo capitava un giorno dopo, io non sarei andato al lavoro. Invece capita di domenica e io mi salto queste feste. No, no, no, Mirko, ce la puoi fare. Ti ringrazio, Signore, perché è un lavoro. Non è un lavoro. Grazie, perché non mi cambia la vita il fatto che il 1° maggio è di domenica. È domenica, posso passare un bellissimo giorno. Grazie, Signore, perché... Ah no, non posso fare la passeggiata. Piove, è grigio. Eppure, diamine, siamo a maggio. No, no, Mirko, ce la puoi fare. Grazie, Signore, perché come mi insegna mio fratello Gianluca, quando c'è il sole posso essere contento che mi riscalda la faccia. E quando piove posso essere contento che l'acquedotto pugliese si riempie di acqua, che le piante godono dell'acqua che gli arriva e loro respirano e vivono. Hai sempre una buona ragione per ringraziare. Smettila di mettere solo dei punti di preghiera, comincia a segnarti dei punti di ringraziamento. Quando ho cominciato a fare questo, la mia stanza, il luogo dov'ero, si è riempito della presenza di Dio. E è stato bellissimo, perché cominciavo a ringraziare il Signore per questo, per quest'altro, per i vestiti che avevo addosso, per la casa in cui dormivo e vivo, per le amicizie, per tutto, per la salute, per il fatto che posso parlare a Dio, per il fatto che lo posso ascoltare, il fatto che so leggere, posso leggere la sua parola. Cominciato a ringraziare su tutto in quella stanza. Fratelli e sorelle, si è riempita della presenza di Dio, della gioia di Dio. Ti invito! Non avere solo punti di preghiera, abbi pure punti di ringraziamento. 2.2, metti su carta le ragioni per cui sei grato. Scrivile. L'Apostolo Paolo ha scritto, letteralmente, se andate a leggere 1 Tessalonicesi 5, voi vi renderete conto che l'Apostolo Paolo, perché non cominciava solo le lettere, non le finiva neanche come istruzione finale, ma anche nel mezzo delle lettere lui parlava del ringraziamento. Ai Tessalonicesi dice proprio le ragioni per le quali lui era grato a loro. Per chi erano, per come camminavano, per la loro fede, per la loro costanza, per la loro crescita nell'amore. L'ha messa su carta. Metti su carta i motivi per i quali tu sei grato a una persona, a te stesso, a quello che Dio ha dato nella tua vita, alla Chiesa. Grazie Signore per questo, grazie per quest'altro, grazie per quest'altro ancora. Su Facebook. Oh, se solo riempissimo Facebook di ringraziamenti, la gente uscirebbe pazza a dire: ma voi siete delle persone illuse, siete delle persone che vivono nel mondo dei sogni. Esatto, viviamo nel mondo dei sogni. Noi viviamo una vita straordinaria, perché il nostro Dio ci dà sempre una buona ragione per ringraziare. Riempiamo Facebook di gratitudine, di ringraziamento. Grazie Gesù per questo, grazie per quello. Mandiamo SMS. Mandiamo messaggi vocali, mandiamo email, scriviamo lettere, mettiamo su carta, nero su bianco, motivi per i quali siamo grati a nostro marito per chi lui è, a nostra moglie per chi lui è, ai nostri figli, ai membri del gruppo familiare di cui facciamo parte. Metti su carta le ragioni per cui sei grato. E terzo punto e ultimo, allontana dalla tua vita il guastafeste. Sapete chi è il guastafeste, no? Ci sono tanti guastafeste. Il primo, per eccellenza, è il maligno. Però poi ci sono persone che sono dei guastafeste. Posso ricordarti questa sera che la tua vita, la mia vita, è una festa da celebrare. Non è una tragedia da sopportare. La tua vita è una festa. È una festa, hai tante ragioni per cui essere grato a Dio. Sì, ci sono i problemi, sì, ci sono le situazioni difficili. E la notizia è questa, sempre ci saranno. Ma la tua vita può diventare una festa se non permetti al guastafeste di rovinare la festa. Se non permetti a quella persona che ha sempre da ridire, che ha sempre da infangare, che ha sempre da criticare, che ha sempre da mormorare, che ha sempre da trasmetterti cose negative... Noi non possiamo allontanarci da queste persone, anzi, siamo chiamati ad influenzarle, siamo chiamati ad accoglierle, ma non invitare il guastafeste nel tuo cuore, non permettere che questo crei uno scambio fra te e lui. Andatevi a leggere Numeri 13 e 14, sono stati 10 guastafeste e 2 invece che volevano farla tutta la festa ed erano Giosuè e Caleb. Il popolo di Israele che cosa ha fatto? Ha sentito 12 persone, ha scelto 10. Quelle 10 che erano lì per guastare la festa. E ha cominciato a rispondere a quei 10. Sì, è vero. È pericoloso. C'è da fare una battaglia. E credevi di entrare in una terra promessa dove ci sono delle persone, non avere delle sfide. È pericoloso. Ci succederà questo e quest'altro. Hanno cominciato a fare uno scambio molto negativo. Questo ha rovinato la festa. Non vivere questi tipi di scambi nella tua vita. Se c'è qualcuno che viene per mormorare, per criticare, per portare del negativo, non far penetrare quelle parole nel tuo cuore. Non vivere alla sua altezza, o meglio alla sua bassezza, a quello stato di ingratitudine dal quale Dio ti ha riscattato e Gesù è morto per te. Elevati, vola e se possibile porta quella persona con te. Incoraggialo. E li senti, è vero, avremo ore da spendere insieme per analizzare tutte le cose che non vanno. Nella tua vita, nella mia vita, nella società, nella politica, in tutto quello che ci circonda. Però sai cosa? Ci sono anche tante belle notizie. Ci sono tante belle cose. Sei una persona di talenti. Tu hai un futuro, tu hai un destino. Tu sei una bella persona con la quale è piacevole parlare. Parliamo di cose belle. Scegli di allontanare dalla tua vita il guastafeste, perché la vita è una festa da celebrare, puoi celebrarla con Dio, per mezzo di Cristo Gesù. E non è una tragedia da sopportare. Sapete qual è la parola? La parola che abbiamo trovato in questi versi, rendimento di grazie, gratitudine, io rendo sempre grazie a Dio, in tutto il Nuovo Testamento, è una singola parola, una singola radice, che è questa, eucharistia. Eucharistia significa rendimento di grazia, significa gratitudine, dalla quale proviene il termine eucharistia che la Chiesa Cattolica utilizza. E vivono questo sacramento, la Chiesa Cattolica vive questo sacramento facendo riferimento a quello che è il rendimento di grazia che Gesù ha fatto nell'ultima cena. Perché ha reso grazie a Dio per il pane e per il vino. Ora, la cena del Signore che noi celebriamo non è l'Eucaristia cattolica, ma vogliamo attenerci a quello che è l'insegnamento biblico a riguardo. E l'insegnamento biblico e questi simboli hanno una profondità enorme. E ci sono tante cose che noi andiamo a vivere nel momento in cui partecipiamo alla cena del Signore. È senza dubbio vero però che una di queste è il rendimento di grazie. È un momento nel quale noi possiamo vivere quella gratitudine profonda a Cristo per quello che Lui ha fatto. La vera Eucaristia. Il rendimento di grazia, la gioia, l'allegrezza. Sapete, non deve essere necessariamente un momento triste. Può essere e deve essere un momento nel quale noi trasmettiamo riverenza. E dove anche magari viviamo quello che può essere la parte della tristezza di quello che è accaduto, la parte di tristezza dei nostri peccati. Facciamo questo in memoria di Lui e per quello che Lui ha fatto. Ma quale momento migliore per poter vivere la gioia e la gratitudine per la vittoria che Lui ha avuto su quella croce per la mia e per la tua vita per l'eternità? Questa sera, ogni cosa che ti porta ad essere ingrato, portalo davanti alla cena del Signore e lascialo lì. Prendi il pane, prendi il vino e celebra, celebra la gratitudine. Celebra il ringraziamento, ringrazia Dio per quello che Lui ha fatto, ringrazialo per la vita che ti dà, ringrazialo per ogni progetto, per ogni destino al quale Lui ti sta chiamando. Dio ti ama e ti chiama a vivere una vita straordinaria. Prenditela questa sera. Vogliamo alzarci in piedi. E mentre cantiamo ora questo coro, io chiedo che tutti noi possiamo sintonizzarci con Cristo e parlare direttamente a Lui, perché ognuno di noi ha questa possibilità. È un altro dei motivi per il quale possiamo essere grati. Metterci in connessione con Lui e dirgli, Signore, grazie. E fargli un elenco di motivazioni per le quali sei grato a Lui. Lo vogliamo fare. Vogliamo pregare. Padre, noi ti ringraziamo questa sera. Gesù, ti ringraziamo per la tua vita spesa per noi, donata a noi. Grazie Gesù, perché quello che tu hai fatto 2000 anni fa dà a noi il diritto e la gioia di vivere una vita straordinaria, che non è determinata più dal maligno e dalle sue bugie, ma è determinata da quella che è la tua verità e quella che è la rivelazione tua attraverso la tua parola. Grazie Gesù per quello che hai voluto rivelarci questa sera. Grazie per quello che tu hai voluto rivelare a ciascuno di noi attraverso la tua parola. E noi questa sera ti diciamo che vogliamo appropriarci di ciò che onora te più di ogni altra cosa, la gratitudine del nostro cuore. La gratitudine perché il vecchio uomo è morto e siamo nuove creature in te. La gratitudine perché tu ci ascolti, ascolti le nostre preghiere. La gratitudine del fatto che noi non siamo niente, non meritiamo niente, eppure tu rivolgi il tuo sguardo verso di noi e ci ami e tendi le tue mani verso di noi e ci abbracci, ci dai un destino di vita meraviglioso. Noi siamo grati a te, Cristo Gesù. Grati a te, Signore Gesù. Grazie, grazie, grazie, Gesù. Alleluia. Lodiamo insieme, Chiesa.